edizione. Prima edizione, buona giornata ancora da Anna Migliorati, copertina musicale. Questa mattina Valentina Movie, la prima mostra dedicata ad una delle donne più famose e più sensuali dei fumetti, Valentina. Abbiamo voluto dedicare a questo la copertina questa mattina di prima edizione, curata dall'archivio Crepax e dal giornalista Vincenzo Mollica. L'esposizione apre oggi fino al 30 settembre a Palazzo Incontro nella Capitale. Nata nel 1965 dalla penna di Guido Crepax, ad ispirare il personaggio di Valentina, la mitica attrice del muto Louise Brooks, come ricorda Antonio Crepax, figlio del grande artista e disegnatore di fumetti. Prima mostra romana dedicata a Valentina, proprio dedicata al personaggio, Valentina Movie, perché tutto sommato siamo qui, Palazzo Incontro, che è appunto di Fandango, per cui parlando con Vincenzo Mollica, che tra l'altro è con noi, con me, con mia sorella Caterina, co-curatore della mostra, abbiamo deciso di dare un taglio più cinematografico a questa mostra. Quindi Valentina Movie per suggerire quelle che sono un po' i collegamenti fra il personaggio di Valentina, che viene da la Louise Brooks, che è l'attrice del cinema muto degli anni 30, quella che ha interpretato Lulu, e poi anche per sottolineare il montaggio cinematografico delle storie a fumetti di Valentina. Eccoci, un assaggio questo di GR Spettacoli che ci aspetta alle 8:20. A noi tra poco invece aspettano le prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. E non potevamo non aprire la nostra carrellata consueta delle prime pagine dei quotidiani questa mattina, in piena bufera per il calcio scommesse con gli arresti di ieri e con la nazionale che si prepara agli europei, con, se non con la Gazzetta dello Sport, che così titola questa mattina la retata. Mauri e Milanetto arrestati, Conte indagato, blitz a Coverciano, Criscito, niente nazionale. La retata, il titolo della Gazzetta dello Sport, dove il commento è l'editoriale affidato ad Andrea Monti, che scrive tutta la verità e nessuno sconto. Anzitutto non chiamiamolo terremoto, così scrive questa mattina Andrea Monti, per rispetto dei poveri cristi che in Emilia un terremoto lo stanno vivendo davvero, ma soprattutto perché lo scandalo delle scommesse, entrato con la retata di ieri nella sua fase più devastante, non è affatto un evento imprevisto, imprevedibile e soprattutto ineluttabile. Dagli anni 80, a cominciare dal Toto Nero, il nostro calcio vive a cicli ravvicinati, scossoni sempre più gravi. Così Andrea Monti, tutta la verità, nessuno sconto. Sulla Gazzetta dello Sport, gli altri quotidiani in edicola più o meno tutti aprono con questa vicenda, con tagli diversi ma il concetto è più o meno sempre lo stesso. E allora il Corriere della Sera: l'inchiesta investe Serie A azzurri, la polizia nel ritiro della nazionale, indagati Criscito e Bonucci. Qui il commento di Giovanni Bianconi, e questo è il titolo: se il gioco più amato somiglia a Tangentopoli. L'alterazione delle partite è percepita a torto o a ragione, scrive il Corriere della Sera, come non meno grave di fenomeni di corruzione che avvengono nel campo politico e amministrativo. Così il giudice che ha ordinato gli arresti ce n'è quanto basta per non fidarsi più del calcio giocato, al pari di quel che accadde 20 anni fa con i partiti. La Repubblica: scommesse, terremoto nel calcio, 15 arresti, lo scandalo colpisce la nazionale. Qui a scrivere è Maurizio Crosetti: se questo è uno sport, calcio marcio anche in nazionale. Devastante l'immagine delle volanti che entrano a Coverciano, la casa del pallone, la tana degli azzurri. Partite truccate, bufera sul calcio, in carcere anche Mauri, indagati gli azzurri Criscito e Bonucci, Juve, Conte nei guai, così il Messaggero. E sul quotidiano romano il racconto del summit al ristorante con Sculli e l'albanese, il fatto incriminato che poi sta dietro il blitz scattato ieri su volere della procura di Cremona, 19 arresti, blitz della polizia nel ritiro della nazionale a Coverciano, così il Messaggero. La Stampa, anche qui l'apertura è la stessa: scommesse, Serie A nel caos, perquisizioni nel ritiro della nazionale. E naturalmente il quotidiano torinese, La Stampa, l'attenzione la punta su l'allenatore allenatore della Juventus e quindi anche Conte sotto inchiesta. Io onesto e si commuove, la società fa quadrato, guiderà la Juventus in Champions, così sulla stampa. Il Sole 24 Ore, anche il Sole 24 Ore questa mattina parla di calcio e delle scommesse con i 19 arresti, ma lo fa anche un po' a modo suo coi numeri di questo calcio, che non è malato solo per il calcio scommesse ma anche per i suoi conti, scrive oggi il Sole 24 Ore. Calcio a rischio crack, perdite per 428 milioni. Nella classifica costi e risultati sportivi, il Chievo precede Catania e Bologna e in coda ci sono le grandi, a cominciare da Milan e Inter. Questo perché i dati erano già stati resi noti qualche settimana fa, ma il Sole 24 Ore è andato a spulciare le classifiche, in questo caso economiche, della società. Un calcio malato anche per i suoi conti, calcio a rischio crack, perdite per 428 milioni, dicevamo, scrive oggi il Sole 24 Ore. Questa è la notizia che apre un po' tutte le prime pagine dei quotidiani. Ce n'è un'altra naturalmente su cui si punta l'attenzione ed è ancora invece la vicenda del Vaticano. Allora, su questo taglio centrale, ad esempio sulla Repubblica, Vaticano, la grande guerra dello IOR, il braccio di ferro sulla banca dietro le mosse dei corvi, interrogati 5 cardinali e il maggiordomo del Papa collabora. La partita interna al Vaticano adesso si concentra tutto intorno allo IOR ed è un confronto in cui il segretario di Stato Tarcisio Bertone si gioca il proprio futuro, scrive Marco Ansaldo sulla Repubblica. Il maggiordomo e la rete dei corvi è il taglio centrale anche per il Corriere della Sera. Trovati i dossier pronti per la spedizione con i nomi dei destinatari. Questo, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, i segreti dell'inchiesta sull'assistente del Papa, Paolo Gabriele, l'aiutante di camera del Papa, accusato di essere il corvo del Vaticano, leggiamo dal Corriere della Sera, ha dichiarato al giudice che offrirà la più ampia collaborazione, ma sono stati trovati dossier pronti per la spedizione, appunto con i nomi dei destinatari, e la Santa Sede dice di su un nuovo incriminato. E allora vediamo cosa scrive il quotidiano cattolico L'Avvenire questa mattina, che l'apertura la dedica ancora al calcio scommesse anche qui, ma poi riporta le parole di Padre Lombardi, capo della sala stampa vaticana: trasparenza, responsabilità e fiducia, carte rubate, l'invito ai giornalisti a non diffondere notizie senza fondamento, così sull'Avvenire Padre Lombardi, che ieri ha tenuto una conferenza stampa, e allora noi ve lo facciamo ascoltare. Devo smentire tassativamente che ci sia un cardinale italiano, comunque un cardinale, che sia sospettato di responsabilità, e anche che ci sia una qualche donna. Questo non è assolutamente vero, come non è vero quello riportato in una intervista pubblicata questa mattina di una donna che debba coordinare un gruppo di persone che facciano indagini per conto del Santo Padre. Sono notizie assolutamente prive di fondamento. L'avvocato difensore ha dichiarato che c'è volontà da parte di Paolo di collaborare alla ricerca della verità e a stabilire la verità sugli eventi. Ma il Papa naturalmente segue la vicenda, viene informato dai suoi collaboratori, naturalmente è addolorato per questa situazione, e però è deciso, con la collaborazione delle persone che sono di sua fiducia, per ristabilire la verità e la fiducia nel governo della Chiesa. E così dunque Padre Lombardi, l'avete sentito, della vicenda torneremo a parlare naturalmente nel corso della mattinata, a cominciare da GR24. Nel frattempo le altre notizie invece sulle prime pagine dei quotidiani: troverete un po' dappertutto la sentenza sui presunti abusi, a questo punto non riconosciuti, dell'asilo di Rignano, tutti assolti, leggiamo dal centro pagina del Messaggero. Le maestre scagionate dopo 6 anni dall'accusa di pedofilia perché il fatto non sussiste. La sentenza dice: non ci furono abusi, ma dai genitori sono arrivati insulti ai giudici. Li avete sentiti anche poco fa in GR24. Altre notizie sulle prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. Taglio centrale, in questo caso del Sole 24 Ore. L'attenzione la punta ancora sui conti spagnoli. Il caso Bankia che spaventa la Spagna. Il premier Rajoy costretto a smentire nuove voci di ricorso al fondo salva stati. E quindi ancora le borse in altalena e lo spread di Madrid al record oltre 500 punti. Così il Sole 24 Ore. Sulla Repubblica c'è invece Catricalà che parla del CSM, Monti fiducia nel sottosegretario, lui dice ho sbagliato ma in buona fede. La vicenda è quella della riforma della giustizia che è stata lanciata un po' da Repubblica e quindi va avanti per la sua strada il quotidiano La Repubblica, in questo caso con una lettera inviata a Repubblica di Catricalà che dice ho sbagliato a inviare quel testo ma è un errore in buona fede. Sulla Repubblica c'è un'altra lettera politica invece su il Corriere della Sera, in questo caso firmata invece da Angelino Alfano. Riforme, ci vuole uno scatto, così il calendario per fare tutto, facciamo un appello a tutti i nostri interlocutori politici, scrive in una lettera al Corriere della Sera quest'oggi Angelino Alfano. Serve uno scatto di reni, cogliamo tre coincidenze favorevoli come la fine del settennato del presidente, il termine della legislatura e l'imminenza del dibattito in Parlamento per varare insieme presidenzialismo e nuova legge elettorale. Le proposte ci sono, i tempi anche. Va avanti su questa strada il PDL, così la lettera oggi di Angelino Alfano su il Corriere della Sera. Altre ancora notizie, c'è tempo per qualche curiosità. Allora, curiosità dalla Repubblica di questa mattina, il taglio basso, veniamo le notizie un po' più curiose. Londra, vale 55 miliardi la monarchia S.P.A. 60 anni al comando di una nazione sono un record mondiale. Quasi solo il re di Thailandia al potere dal più tempo, ma chi conosce il suo nome o il suo volto? Naturalmente si parla della regina Elisabetta. Non sono pochi, tuttavia neppure 60 anni alla testa di un'impresa, perché monarchia S.P.A. vale 55 miliardi, così oggi sulla Repubblica. Sulla Stampa invece, una notizia che avrete sentito, avrete visto sui siti, e oggi la Stampa la mette in evidenza, vale a dire il viaggio di nozze di Mr. Facebook Zuckerberg, è in Italia, è a Roma, è stato avvistato, tradito dal suo rivale, scrive la Stampa oggi. Zuckerberg la dolce vita, Mr. Facebook in luna di miele, tradito da Twitter, e Twitter che con le sue immagini ha rivelato dove si trova. È ancora in Italia, ha lasciato Roma, ha preso un aereo per andare dove non si sa, ma già si aspetta che qualcun altro su Twitter o magari sul suo Facebook posti altre immagini. E ancora torniamo sulla Gazzetta dello Sport, da cui eravamo partiti invece per un'ultima notizia, perché parliamo di nuoto. Dopo il flop nei 400, oggi ci saranno gli esami per Federica Pellegrini. Lei dice spero non sia un problema di salute, così sulla Gazzetta dello Sport Federica Pellegrini, oggi gli esami. Ed era l'ultima notizia almeno di questa prima carrellata, avremo tempo come sempre di approfondire anche le pagine interne più avanti nella mattinata di Radio 24. Per noi invece una piccola pausa, poi torniamo alle notizie di oggi. Prima edizione con Daniele Biacchessi. Italia in controluce. Bene, buongiorno e buona mattina. Oggi è il 29 di maggio e vi parla Daniele Biacchessi su Radio 24. La lotta alla mafia passa anche dalla memoria delle vittime. Oggi abbiamo pensato di ricordare una storia, quella di Lea Garofalo. Questa storia non è ambientata a Corleone, a Lamezia Terme, in Puglia, in Campania, bensì a Milano. Il racconto di Sabrina Piso. Lea Garofalo che è scomparsa, sciolta anche nell'acido, la incontrai a Firenze dopo un incontro pubblico. Quando stavo per andarmene via mi fermò e chiese aiuto. La mise in contatto con un bravissimo avvocato Stato, che con Libera si spende molto per dare una mano proprio ai testimoni e alle vittime. Il presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ricorda ancora la solitudine di Lea Garofalo. La donna calabrese, testimone di giustizia, aveva raccontato agli inquirenti fatti di sangue di una faida d'indrangheta, di un omicidio avvenuto nel 1995. A 35 anni è andata incontro alla sua fine con la consapevolezza di chi conosce bene la legge del sangue che si lava col sangue. Era una sera, quella 24 novembre 2009, quando è stata sequestrata a Milano dall'ex compagno Carlo Cosco, legata e torturata per sapere cosa avesse raccontato agli inquirenti. Le hanno sparato in testa il giorno dopo e poi, dentro un magazzino tra Milano e Monza, l'hanno sciolta in 50 litri di acido, sorvegliando per 3 giorni che il suo corpo arrivasse alla totale dissoluzione. Espiava così la sua imperdonabile colpa di essersi messa dalla parte della giustizia. Dopo la morte di sua madre, Denise, 19 anni, è diventata una testimone di giustizia. Teste chiave dell'accusa, si è presentata in aula con un cappuccio e dietro un paravento ha puntato il dito contro suo padre, Carlo Cosco, gli zii Giuseppe e Vito Cosco e gli altri 3 imputati, facendoli condannare alla massima pena. L'ergastolo. Essere testimone contro il proprio padre, contro alcuni dei propri parenti, costa molto. È un segno di coraggio e determinazione che non deve essere dimenticato e che deve essere fortemente sostenuto. Lea Garofalo sapeva che l'ex compagno voleva farla sparire sin dal 2001. Ci aveva già provato a Campobasso. Così nella primavera 2009 aveva deciso di uscire dal programma di protezione per riaprire un contatto con lui. Ha fatto marcia indietro per pressioni familiari. Ci spiega Piero Grasso, procuratore nazionale antimafia. È una testimone che non si è affidata completamente alla protezione perché poi ha fatto marcia indietro, naturalmente per pressioni familiari, capisco bene. Noi non abbiamo casi in cui la protezione ha subito dei comportamenti del genere come l'uccisione del testimone finché è protetto. Purtroppo quando ci sono questi ondeggiamenti tra la protezione e il rifiuto della protezione, poi si possono verificare cose del genere. Perché non è facile essere una testimone di giustizia, lo sa bene Denise, che vive da anni sotto protezione. Bisogna fare di più per loro, che sono un patrimonio, sottolinea Don Luigi Ciotti. I testimoni sono un patrimonio che merita attenzione, rispetto da parte di tutti. Devo dire che lo Stato ha fatto certamente nell'arco degli anni alcuni provvedimenti importanti e positivi. C'è ancora molto molto di più che deve essere ancora fatto. Era Italia in controluce, grazie a Sabrina Pisu per questo reportage, quello più lungo lo sentiremo oggi alle 13.30 su Radio 24. Grazie Daniele Biacchessi, come avete sentito lo ritroveremo alle 13.30, invece la seconda parte d'Italia in controluce. L'apriamo con una notizia appena battuta dalle agenzie che ahimè è una nuova scossa di terremoto, non in Emilia ma tra Calabria e Basilicata, è stata registrata alle 6.04 di questa mattina e a questo punto è l'ottava negli ultimi 2 giorni, la prima è la più forte delle quali magnitudo 4.3 alle 3.06 di ieri, quindi la notte precedente. Un'altra scossa, già ve l'avevamo detto prima, era stata registrata a 00:51, sempre al confine tra le province di Cosenza e Potenza, 6.04, ne è stata registrata un'altra, magnitudo 2.8. Questo l'ultimo aggiornamento di quel che sta accadendo in queste ore, di quel che è accaduto nella notte ieri sera. Invece altri fatti sono avvenuti in Egitto, di cui è un po' che non parliamo, ma nel frattempo le cose stanno andando avanti. C'è stato il primo turno delle elezioni, torna ad essere alta la tensione. Ieri sera ci sono state altre manifestazioni al Cairo e in altre città dell'Egitto. Cosa è successo ieri sera? Allora, per raccontarcelo, saluto Valentina Fulanetto. Sì, buongiorno a te Anna e agli ascoltatori. Come dicevi, monta l'onda pro boicottaggio del prossimo turno elettorale in Egitto, che si terrà il 16 e 17 giugno, e in vista di questo voto centinaia di manifestanti si sono radunati ieri sera al Cairo e in altre città per protestare contro l'esito del primo turno. I due candidati al ballottaggio per le presidenziali egiziane, lo ricordiamo, sono l'ex premier di Hosni Mubarak Ahmed Shafik e il leader dei Fratelli Musulmani Mohamed Morsi. Morsi è stato eletto, è stato votato da 5 milioni di voti, ha avuto molti più voti del suo avversario. Shafik è stato l'ultimo primo ministro sotto Hosni Mubarak, quindi tenete presente queste loro diversi pesi specifici. Alle 23 c'erano almeno 7.000 persone in piazza. Allora sentite, questo è l'audio del canale televisivo privato Al Ayat, il cui corrispondente, lo state ascoltando in sottofondo, ha mostrato le immagini delle fiamme e della piazza dove si è tenuta la protesta. Potete trovare anche queste immagini in rete abbastanza facilmente. È stato appiccato il fuoco all'edificio che ospita Shafik nel quartiere Doki e migliaia di persone hanno invaso piazza Tahrir al centro del Cairo. Il fatto che Shafik, che era appunto ministro sotto il precedente regime, partecipi al ballottaggio sconfessa, secondo i manifestanti, lo spirito rivoluzionario della primavera araba. I manifestanti hanno chiesto quindi che sia applicata a Shafik la legge che esclude i vertici dell'ancien regime dalla corsa elettorale. In un primo momento infatti Shafik non era stato ammesso alle elezioni in virtù proprio di una legge approvata e votata dal Parlamento per l'esclusione delle presidenziali dei personaggi di punta del precedente regime. La Corte Costituzionale egiziana si riunirà l'11 giugno proprio per decidere sulla costituzionalità o meno di questa norma, giusto in tempo quindi per il voto del ballottaggio. Per ora è tutto. Grazie a Valentina Furlanetto. Anche questo è accaduto tra ieri sera e questa notte. Naturalmente gli aggiornamenti, come sempre, a prima edizione anche su questo fronte. Questa mattina però torniamo ancora alla vicenda invece del calcio scommesse, perché oggi sarà ufficializzata la lista definitiva dei 23 azzurri per gli europei 2012, con Coverciano e tutto il pallone italiano in piena bufera calcio scommesse, mentre questa sera gli azzurri li vedremo intanto in campo. In qualche modo dovranno scendere in campo perché c'è l'amichevole Italia-Lussemburgo, che è un'amichevole ma sulla quale gli occhi saranno puntati per vederli gli azzurri reduci dal blitz di Coverciano. Questa volta è peggio del 2006, le parole sono di Daniele De Rossi, campione del mondo in Germania, che tra i molti ha commentato lo scandalo scommesse più eclatante contro la con la polizia dentro Coverciano e persone che conosco arrestate. E De Rossi dice: andremo all'europeo con un marchio di fabbrica. C'è molto altro da dire, ma cominciamo col farvi sentire intanto le parole ieri dell'allenatore della Juventus, Conte. Oggi mi è arrivato un avviso, sono stato indagato, no? Per associazione a delinquere. Ho avuto una perquisizione in casa e io non c'ero neanche. Ho letto il provvedimento, ho visto le poche parole scritte. Però la prima domanda che mi è sorta, sapete qual è? Come mai non sono stato chiamato dal PM di Cremona prima di subire una perquisizione e prima di subire comunque di diventare un indagato? Io ho letto il provvedimento, ho letto le poche parole, mi sarei aspettato dal PM di Cremona almeno che mi avesse sentito prima di adottare determinati provvedimenti. Così l'allenatore della Juventus. Calcio malato per il calcio scommesse e calcio malato anche per i conti. Oggi il Sole 24 Ore in prima pagina titola così: calcio a rischio crack, perdite per 428 milioni. Cosa succede? Succede che il Sole 24 Ore, l'attenzione ora la punta anche su un altro elemento che diventa quanto mai importante, vale a dire i conti di queste società al di là del calcio scommesse. Per ogni punto conquistato nell'ultimo campionato, scrive il Sole 24 ore, il Chievo ha speso 722 milioni di euro, il Catania secondo 756 milioni di euro, terzo il Bologna 865 mila euro. L'ultima in questa gradatoria è l'Inter, che ha speso poco più di 5 milioni per ogni punto, ne ha fatti 58. Il Milan, secondo in campo ma penultimo in questa classifica, ha speso 4 milioni e 111 mila euro, terz'ultima la Roma con poco più di 3 milioni spesi per ogni punto. Per queste tre scatterebbe la retrocessione. E allora i problemi del calcio forse sono anche questi, anche di conti, così oggi il Sole 24 Ore. Io vi lascio alla lettura del quotidiano, che troverete appena andrete in edicola. Facciamo invece una piccola pausa, poi andremo a Brindisi invece. Prima edizione. Ieri sera per la prima volta lo ha fatto Sky TG24, è stato mostrato il video integrale dell'attentatore di Brindisi. È silenzioso, quindi noi non possiamo che raccontarvelo, però davvero è impressionante, perché si vede un uomo che passeggia avanti e indietro per tre volte, guardando verso la scuola, alza il braccio, aziona il telecomando, si allontana. Quindi azione quanto mai voluta. Credete, c'è davvero, è davvero impressionante. Oggi Mesagne, il paese della ragazza uccisa di Melissa, tornerà in piazza, e allora io saluto il sindaco Franco Scoditti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Perché ognuno scelga da che parte stare. Era una giornata, tra l'altro, che voi avevate già in programma, ora ha altri significati, ma questo 29 maggio ci sarebbe stato comunque. Io innanzitutto le chiedo, lei un'idea alla fine, se l'è fatta? No. È ancora molto del mistero. Non credo possono fare le ipotesi più disparate. L'ha visto lei il video? No, non ho avuto modo di vederlo. C'è proprio l'intenzione di guardare verso la scuola e aspettare i ragazzi. Secondo lei aspettava proprio i ragazzi del suo paese? Non lo so. E come si fa a fermare una cosa del genere? Non so. Può darsi che aspettava i ragazzi del mio paese, ma non sappiamo se i ragazzi di Mesagne e poi se quei ragazzi, quelle ragazze, chi dava la certezza che sarebbero state, che in quel momento del processo, quelle ragazze e non altre. Questo è il punto. Ed è questo il punto che vi lascia incerti. Oggi alle 10 ci sarà una seduta straordinaria del Consiglio Comunale con i ragazzi, ci sarà Don Luigi Ciotti. Che risposte si sente di dare ai suoi cittadini, ai suoi ragazzi? Ebbene, ai ragazzi anzitutto la necessità di non perdere la speranza, anzi, che devono continuare ad essere loro la speranza della città, la speranza del futuro, di non arrendersi, di lottare per la libertà, per la democrazia, per la legalità, perché rimanga vivo il ricordo di Melissa. Per rimanere vivo il ricordo di Melissa c'è bisogno che ognuno si appropri del proprio destino, ma anche della propria responsabilità verso se stessi, responsabilità verso gli altri, verso la società in generale. Mesagne è uno di quei paesi che si dice si sta ribellando, sindaco? Sì, è da anni che si ribella Mesagne, è da anni che si ribella nel senso non soltanto con le manifestazioni, in senso concreto, mettendo in atto politiche di carattere sociale che facciano riprendere, che diano attenzione soprattutto alle fasce più deboli. Si sta ribellando con politiche di carattere culturale, si sta ribellando tenendo sempre i temi della legalità, dei percorsi di legalità, in maniera continuativa. Lo si fa con le associazioni, lo si fa con la Chiesa, lo si fa soprattutto con le scuole e nelle scuole. E da qui, da questo paese, veniva Melissa. Oggi la ricorderete ancora, perché ognuno scelga da che parte stare. Alle 10 il Consiglio Comunale aperto a Mesagne. Grazie al primo cittadino allora di Mesagne, Franco Scoditti, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie. 6:51 minuti, prima edizione termina qui. Noi ci risentiamo tra pochissimo con le notizie di GR24. Resta in regia Peter Bescapè, grazie a Diego Rovelli. Buona giornata da Anna Migliorati. Ci risentiamo tra poco.